Ogni essere umano è nato libero e ha tanto diritto a quel che lo sostiene quanto all'aria che respira. Con queste parole Mishon incita la sua ciurma a creare una repubblica marinara. Una repubblica marinara in Madagascar, dove oggi l'Angolo Noir, come promesso, vi condurrà alla fine di quel lungo viaggio che avevamo cominciato con la Repubblica di Salé. A dopo, ci ascoltiamo un pezzo e ricomincia il viaggio. Nel XVII secolo e all'inizio del XVIII, una quantità di utopie pirate indipendenti nacquero in altre parti del mondo. Le più famose tra queste furono Hispaniola, dove i bucanieri crearono la loro caduca società altamente anarchica, Libertalia, nel Madagascar, Rensselaer Bay, in Madagascar, e Nassau, nelle Bahamas, che fu l'ultima classica utopia pirata. La maggior parte degli storici non ha notato il significato delle enclave terrestri dei pirati, vedendole semplicemente come luoghi di riposo tra una spedizione e l'altra. Ma il concetto di società pirata è una contraddizione in termini per la gran parte delle teorie storiche, poiché i bucanieri di Hispaniola, quella che oggi è la moderna Santo Domingo, costituivano proprio una di queste società. Hispaniola fu una specie di no-go zone nel tardo XVI secolo e all'inizio del XVII. La popolazione locale era diminuita e nessuna potenza europea deteneva un potere effettivo. Marinai naufragati, disertori, schiavi e servi fuggiti, emarginati, iniziarono a ritrovarsi a Hispaniola, liberi da ogni governo e in grado di sopravvivere come cacciatori. Bestiami e maiali inselvatichiti, discendenti dalle mandrie dei tentativi falliti e svaniti di colonizzazioni, vagavano per le foreste, insieme alla selvaggina. Il bucano, carne secca affumicata, che era una tecnica che avevano appreso dai nativi caraibici, poteva essere scambiato con altre merci, con le navi di passaggio. Ed è così che nacquero i Fratelli della Costa, assolutamente coscienti della propria libertà e organizzati per conservarla. Più tardi altre comunità vennero fondate sull'isola della Tortuga e a New Providence. I bucanieri si diedero soltanto gradualmente alla pirateria e quando lo fecero si unirono sotto gli articoli delle navi. Alcuni di questi articoli o costituzioni sono citati da Exemelin, che è l'unico cronista testimone oculare dei bucanieri durante la loro epoca d'oro. Questi articoli sono l'unico documento pirata autentico che rimane esistente. Generalmente si dice che richiedessero le elezioni di tutti gli ufficiali della nave, ad eccezione del secondo timoniere e di altri artisti, quali il velaio, il cuoco e il musico. I capitani venivano eletti e ricevevano anche soltanto una volta e mezza o due la parte di un membro della ciurma. Le punizioni corporali furono poste fuori legge e i dissensi anche tra ufficiali e marinai venivano risolti con processi sommari o dal codice del duello. A volte qualche arcigno pirata gallese, come ad esempio Black Bart Roberts, poteva inserire una clausola che proibiva l'ingresso a bordo di donne e bambini, ma normalmente non accadeva. Il liquore non era mai proibito. Le navi pirati erano delle vere e proprie repubbliche, ciascuna nave o flotta una democrazia galleggiante indipendente. I primi bucanieri vissero un'esistenza piuttosto idilliaca nei boschi, una vita segnata da estremi di povertà ed abbondanza, crudeltà e generosità, e punteggiata da disperate sortite in mare su canoe che facevano acqua e sloop raffazzonati. Lo stile di vita del bucaniere aveva un ovvio fascino: armonia interrazziale, solidarietà di classe, libertà dal governo, avventura e possibilità di gloria. Altri tentativi sorsero. Il Belize venne inizialmente colonizzato dai bucanieri. La città di Port Royal in Giamaica divenne casa loro. Si possono ancora vedere le sue rovine incantate sotto il mare, il quale l'affondò completamente nel 1692. Ma anche prima di questo colpo di grazia di dimensioni bibliche, la vita dei bucanieri era ormai quasi giunta al termine. Il brillante Harry Morgan, audace e fortunato, salì al comando, organizzò l'incredibile invasione bucaniera di Panama nel 1671 e poi accettò l'indulto reale insieme ad una nomina inglese, quale governatore e giudice supremo, e tornò alle sue antiche dimore come boia dei vecchi compagni d'arme. Era certamente la fine di un'epoca. I bucanieri sopravvissuti, tagliati fuori dalle proprie basi permanenti in terraferma, divennero pirati. We'll be right back. Il sogno dell'epoca d'oro continuava ad aleggiare. L'idillio silvano di Spagnola divenne sia un mito d'origine sia uno scopo politico. D'ora in poi, ogni qualvolta i pirati ne avessero l'opportunità, tentavano la fondazione di enclave terrestri permanenti o semipermanenti. Le condizioni ideali comprendevano la prossimità alle rotte marittime, nativi e donne indigene amichevoli, distanza e isolamento da tutti gli ordini e da tutte le realtà del potere europeo, un piacevole clima tropicale e magari una stazione commerciale o una taverna dove poter sperperare il proprio bottino. Erano pronti ad accettare un comando temporaneo in situazioni di combattimento, ma a riva preferivano la libertà assoluta, anche a costo della violenza. In cerca di bottino erano pronti a vivere o morire per la democrazia radicale come principio organizzativo, ma nel godimento delle spoglie insistevano sull'anarchia. Alcune enclave a riva non consistevano in nulla più che un porto nascosto, una spiaggia dove ripulire le ciglia delle navi e una sorgente d'acqua dolce. Altre erano piccoli porti depravati, come si dice che lo fosse Port Royal o Baltimore, gestiti da ladri rispettabili, come un tale Thomas Crook, praticamente definiti parassiti della pirateria. Ma altre ancora possono solo essere state chiamate comunità intenzionali. Dopotutto erano intenzionali ed erano comunità, e perciò possono essere considerate a giusto titolo utopie pirate. All'inizio del Settecento lo scenario di azione si sposta dai Caraibi all'Oceano Indiano. L'Europa aveva avviato i suoi rapporti coloniali imperialisti con il Medio Oriente e con l'India, però una gran parte del mondo rimaneva selvaggia. E dunque succede che, senza dubbio, la più interessante e la più famosa delle utopie è proprio la Libertalia, è quella che viene definita la più utopica, è quella che abbiamo cominciato a parlare quando Mission, che è il suo fondatore, ha cominciato a rivolgere discorsi sulla libertà alla propria ciurma. Mission e la sua ciurma si danno da fare in una serie di arriembaggi riusciti contro alcune navi, prendendo per bottino solo ciò di cui avevano bisogno e poi le rilasciavano. Episodi di cavalleria e di gentilezza si alternano al coraggio e alla violenza. Davanti alle coste d'Africa catturavano navi negriere olandese per poi rilasciarli. Ed è allora che Mission tiene un lungo discorso all'equipaggio, sostenendo che il commercio di quelli della nostra stessa specie non potrebbe mai risultare piacevole agli occhi della giustizia divina, che nessun uomo abbia il potere sulla libertà di un altro, e quando coloro che professano una conoscenza più illuminata della divinità vendono uomini come bestie, dimostrano che la loro religione non è altro che un'affettazione. Mission prosegue dicendo che lui per primo non aveva esentato il collo dal gioco irritante della schiavitù e ha asserito la sua libertà per schiavizzare altri, e sprona i marinai ad accettare gli africani come compagno di lavoro. E questa è una cosa che accade. Qualche tempo dopo, infine, si stabiliscono sull'isola di Johanna nell'Oceano Indiano, dove lui sposa la figlia della locale regina e anche la ciurma trova moglie. Per qualche anno Mission continua a tenere discorsi, rapinare navi e occasionalmente, quando viene costretto dalle circostanze, a massacrare i suoi nemici. È lui che decide di avventurarsi nelle comunità intenzionali e di trasferire la sua gente in Madagascar. Qui iniziano a costruire una società puramente socialista, nella quale la proprietà privata è abolita e tutta la ricchezza custodita in una cassa comune. Non ci sono siepi a separare i lotti di terra dei pirati. Vengono costruiti moli e fortificazioni e due navi, la Childhood e la Liberty, che vengono inviate a mappare la costa. Viene costruita una casa delle assemblee e Mission viene eletto Lord Conservatore per una legislatura triennale. L'assemblea eletta si riunisce una volta all'anno e niente di importante può essere intrapreso senza la sua approvazione. Le leggi vengono stampate e distribuite, dato che avevano alcuni stampatori e compositori tra di loro. Lo so, la storia probabilmente comincia a non piacervi, c'è qualcosa che non torna e non saremo gli unici a pensarlo. E infatti, il pirata inglese, il capitano Tew, ammiraglio della flotta, ad un certo punto capisce che se ne vuole andare da tutto ciò, si vuole allontanare per fondare un proprio insediamento che sia basato sulla pura anarchia. Niente leggi, niente ufficiali. Per un certo numero d'anni, tuttavia, l'utopia pirata prosperò e quando alla fine fallisce non è a causa delle contraddizioni interne, ma di un'aggressione esterna. Una tribù di nativi ostili li attacca, i coloni si mettono in mare con le loro navi e vengono affondati da un uragano anomalo. Le utopie pirate continuarono a resistere per un altro po' di tempo, finché i rinnegati scomparvero e non si lasciarono alle spalle alcun oggetto, nessuna chiara traccia permanente della loro esistenza. Tuttavia, i marinai del XVII secolo condivisero ben più dei segreti del mestiere. Avrebbero potuto spartire anche certe idee clandestine. L'idea della democrazia, ad esempio, o se per quello l'idea della libertà spirituale, della libertà della civiltà cristiana e da tutte le sue miserie. Siamo abituati, purtroppo, che la storia è osservata. Non è mai osservata dal punto di vista di chi resiste, non è osservata dal punto di vista della lotta morale e dell'espropriazione rivoluzionaria. Nella visione del consenso moderno, il diritto morale di uccidere e rubare appartiene solo allo Stato, ancora meglio allo Stato razionale, secolare e costituito. Chi è irrazionale abbastanza da credere nelle proprie idee come motivo d'azione nel mondo, viene subito etichettato come un fanatico pericoloso. Come si può vedere, non è molto cambiato da quello che avveniva nel 600. Da una parte abbiamo la società e dall'altra la resistenza. Il XVII secolo non conosceva una cosa come l'ideologia, ma di fatto era quello che i rinnegati fecero. La storia ha reso vedere quella dei rinnegati come priva di significato, come un semplice contrattempo nell'inevitabile progredire senza scosse della cultura europea verso il dominio mondiale. I pirati non erano istruiti, erano poveri e marginalizzati e quindi, si suppone, che non avrebbero potuto avere idee o intenzioni. Vengono visti come particelle insignificanti, spazzate via dal flusso principale della storia, da uno strano mulinello o da un vortice di irrazionalità esotica. Migliaia di conversioni verso la fede dell'altro non significano nulla. Secoli di resistenza all'egemonia cristiana europea non significano nulla. Nessuno dei testi sono stati mai menzionati. Non si è detto nulla rispetto a quello che loro hanno posto in essere, rispetto alla loro resistenza e alla loro visione di un'utopia pirata. Nessuno ha potuto ritrovare tracce di quello che fu. Di quello che si può vedere come una forma di opposizione, come un mezzo di fuga contro una civiltà di infelicità economica e sessuale, da una cristianità rispettabile che era basata sulla schiavitù, sulla repressione e sul privilegio dell'élite. Ma la loro esperienza non è stata senza senso, né merita di essere sepolta nell'oblio. Qualcuno dovrebbe rendere omaggio al loro fervore insurrezionale e alla loro zona autonoma temporanea sulle rive del fiume Bouregreb in Marocco. Ed è oggi che l'Angolo Noir ha deciso di rendergli omaggio. Alla prossima. Ciao. Men of good fortune often cause empires to fall, while men of poor beginnings often can't do anything at all. The rich son waits for his father to die. The poor just drink and cry. And me, I just don't care at all. Men of good fortune very often can't do a thing, while men of poor beginnings often can do anything. At heart they try to act like a man, handle things the best way they can. They have no rich daddy to fall back on. men of good fortune often cause empires to fall, while men of poor beginnings often can't do anything at all. It takes money to make money, they say. Look at the Fords, but didn't they start that way? Anyway, makes no difference to me. Men of good fortune often wish that they could die, while men of poor beginnings want what they have, and to get it they'll die. All those great things that life has to give, they wanna have money and live. But me, I just don't care at all. Men of good fortune